luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati, sono alla Venaria Reale, il bellissimo castello alle porte di Torino che in questi mesi ospita una mostra niente meno che dedicata a Raffaello Sanzio. Ora naturalmente quando c'è una mostra di Raffaello bisogna assolutamente muoversi e questa mostra offre dei capolavori straordinari esposti qui, per esempio la Santa Cecilia di Raffaello, la Madonna del Granduca che viene da Firenze, la Madonna Cowper e tanti altri capolavori. Però tuttavia il cuore della mostra non è tanto venire a vedere i lavori di Raffaello, che già sarebbe molto, ma è l'originalità del taglio, e questa mostra racconta qualcosa che di solito uno non ha sotto gli occhi, cioè che la fortuna di questi artisti avvenne attraverso le repliche delle loro opere. Si comincia naturalmente a replicare con il copista che davanti a un quadro di successo fa tante copie, e queste copie vengono portate nel caso di Raffaello in tutta Italia e in tutta Europa. Però non c'erano solo i quadri, perché si poteva replicare attraverso le incisioni, si poteva replicare attraverso gli arazzi, si poteva replicare attraverso le armi. Ecco, è curiosissima, nella mostra ci sono delle rotelle, cioè degli scudi dove le opere di Raffaello sono riprodotte, oppure si poteva intagliare nel cristallo di rocca, e ancora addirittura nei piatti più semplici, quelli di maiolica, si potevano riprodurre i soggetti di questo artista, che divenne proprio famoso grazie a questa diffusione su queste arti minori, che naturalmente noi non associamo subito alla grandezza del pittore che ha realizzato le stanze Vaticane.